Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Eccoci ad un nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, quindi saluto il presidente Carlo Garofolini, benvenuto Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, l'argomento che oggi trattiamo è un argomento sicuramente interessante. Perché? Perché di questi tempi siamo abituati a sentir parlare di falsi, dove ormai le griff di moda sono contraffatte e vendute in giro per l'Italia ma anche per il mondo, ma non c'è solo il falso made in Italy nel settore della moda e delle griff, ma c'è anche sui prodotti, magari proprio quelli DOP, quelli più famosi, no? Per quanto riguarda il cibo. E su questo cade a fagiolo anche una cosa che c'è stata domenica a Chioggia, vero Carlo? Sì, Francesco, domenica è stato promosso un evento tra l'Adico e in collaborazione con la Coldiretti proprio per sensibilizzare quella che è la collettività sugli inganni a tavola, organizzando tutta una serie di iniziative e quindi anche un momento di incontro con le persone, dove siamo andati ad affrontare una tematica molto importante che trattava dal titolo "Difendiamoci dal falso made in Italy", perché ricordiamo che, come hai detto tu, la contraffazione non conosce ambito. In questo caso anche a tavola ci troviamo a dover mangiare cibo contraffatto, chiaramente sapendo che quando si mangia questo genere di cibo il rischio alla salute in questo caso può diventare molto molto elevato. Di che cosa stiamo parlando? Quali sono i cibi che sono stati trattati domenica? Innanzitutto, Francesco, voglio dirti che l'entità, la dimensione della truffa in Italia ai danni del mercato italiano è di circa 50 miliardi di euro. Bisogna anche dire che una delle truffe più comuni c'è anche quella dell'imitazione dei falso made in Italy un po' in tutto il mondo, prodotti che non sono per niente italiani ma che cercano di assimilare il nome, l'etichetta o le diciture di prodotti noti, quando in realtà di casa nostra sostanzialmente non c'è neanche traccia. Per quanto riguarda invece gli scandali che ci sono stati nell'ambito alimentare, io voglio ricordare un po' gli ultimi recenti, e per esempio i pomodori di San Marzano, dove nel 2011 sono state contraffatte 34 tonnellate di questo prodotto che stavano per essere esportate in tutto il mondo e provenivano dalla Cina. Poi ricordiamo che c'è sempre il vino, che è un prodotto che sempre più comunemente viene anche questo contraffatto, addirittura vendono dei kit per poterlo riprodurre. Sì, sì. In polvere addirittura. Poi addirittura parliamo dell'olio d'oliva, che vengono additivate con la clorofilla o con delle sostanze di deodorazione per far sparire il cattivo odore che deriva da altre sostanze che compongono queste miscele appunto dell'extravergine di oliva. Il pesce, che soprattutto sia la provenienza che il processo di trasporto, congelamento, descongelamento provoca sempre dei gravi danni, soprattutto anche con questi locali dove si mangia sempre più comunemente pesce crudo, e tante altre che poi dal grana, per esempio, e via dicendo, che comunque, come detto, ci possono capitare se non stiamo attenti sopra le tavole. E ricordiamo anche i prodotti biologici sequestrati in Puglia qualche mese fa, di cui comunque lo scandalo in Italia è sempre andato sulla ribalta delle prime pagine. Ecco, mi viene anche da citare una serie di formaggi. Tu hai parlato del grana, ma poi c'è tutta una serie di cose sulle mozzarelle e su tanti altri prodotti che sono magari DOP o IGT. La mozzarella di bufala, esattamente, che è stata sequestrata anche qui tempo fa e era stata additivata con dei prodotti altamente cancerogeni. Certo, insomma, un fenomeno che è veramente preoccupante, di cui purtroppo non ci sono molte precauzioni o avvertenze che il consumatore può conoscere per poter evitare di esporsi a questo tipo di genere di truffa, se non quello di imparare veramente a leggere attentamente le etichette, cosa che abbiamo visto sempre meno fa, perché purtroppo è sempre più attratto dal prezzo in promozione e da certi messaggi, come per esempio può essere prodotto non so, direttamente dalla campagna, cotto in casa, pescato l'amo, tutte cose che tendono ad abbassare il nostro livello di guardia e quindi rischiare di compromettere la nostra salute acquistando prodotti che, ripeto, di Made in Italy non hanno nulla. Sì, infatti una delle cose è utilizzare i famosi colori bianco, rosso e verde nelle confezioni di queste cose, che ti danno la parvenza di essere italiani, ma poi magari di italiano non hanno veramente nulla. Quindi l'attenzione, insomma, questa è la cosa principale, la conoscenza, i due punti di forza per combattere questo giro criminoso in qualche modo. Sì, poi qualche piccolo consiglio io mi sento darlo, perché comunque è bene che il consumatore tenga sempre presente innanzitutto che i prodotti sulle etichette sono in ordine decrescente del peso. Quindi se io compro dei biscotti al miele e trovo farina, grano, questo, quell'altro, zucchero, miele, vuol dire che se anche sono al miele, in realtà di miele non c'è quasi niente. Poi dobbiamo ricordarci che se per esempio compro i gnocchi di patate, non è la stessa cosa che comprare i gnocchi con patate. Mm-hmm. Fare molta attenzione ai coloranti, che almeno abbiano la lettera E, che vuol dire che fanno parte della comunità europea. E dopo, per quanto riguarda il codice a barre, ricordiamo che il numero 80 su quelle targhette nere indica che almeno la provenienza è italiana. Certo, molte altre cose bisogna fare. L'ultima cosa volevo dire, come l'ENFSA di Parma, che è un ente europeo per la sicurezza alimentare, ha bocciato l'80% delle indicazioni salutistiche che ci sono sulle confezioni, cioè vuol dire che il fa bene, dà energia, aiuta a perdere peso, depura l'organismo. Tutte queste diciture sostanzialmente più delle volte sono delle balle che, insomma, vengono messe solo per attrarre il consumatore ad acquistare un prodotto però con le false promesse o le false visioni. Certo, preferire quel prodotto ad un altro che magari non scrive nulla, magari sono praticamente identici, però il primo costa molto di più. Va bene, e quindi ne prendiamo atto. Questa cosa del numero 80 sul codice a barre non la sapevo, quindi vedi che imparo sempre qualche cosa anche di nuovo da te. Grazie al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Grazie a te, Francesco, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.